Il voltone del podestà. Iniziamo il viaggio dal luogo che nei secoli si è affermato come il centro della vita sociale e delle attività commerciali cittadine. Piazza Maggiore, il cuore di Bologna, intorno al quale sono radunati gli edifici principali della città medievale. La vista è da togliere il fiato, scenografica al punto da riempire i sensi. Da qui si possono ammirare Palazzo dei Banchi, Palazzo dei Notai e Palazzo d'Accursio e incontrare con lo sguardo uno dei simboli più caratteristici della città, la Fontana del Nettuno. A chiudere la piazza sul lato nord incontriamo il Palazzo del Podestà, sul quale almeno per il momento focalizzeremo la nostra attenzione. Sostanzialmente si tratta del più antico edificio pubblico di Bologna, tanto da essere comunemente chiamato Palatium Vetus, ossia Palazzo Vecchio. Costruito come sede per il governo della città, formato all'epoca dal podestà e dai suoi funzionari, è proprio intorno a questo palazzo che nel lontano 1200 fu progettata l'intera piazza. Come era abitudine a quell'epoca, il comune espropriò torri, chiese e abitazioni per fare spazio a quella che sarebbe stata una delle prime piazze, se non la prima in assoluto, realizzate dopo la caduta dell'Impero Romano. Le piazze di Firenze e Siena, infatti, vennero costruite qualche decennio dopo. Nel caso specifico di Bologna, si rispose alla necessità di creare un luogo da adibire al mercato cittadino. È proprio da questo momento in poi che si afferma nuovamente il concetto di piazza come luogo pubblico di incontro e di aggregazione, un po' come avveniva con i fori al tempo dei Romani. Va precisato che l'attuale facciata del Palazzo del Podestà non è quella originale. A metà del 1400, infatti, Giovanni II Bentivoglio la fece ricostruire in stile rinascimentale, donandole l'aspetto che conosciamo oggi. Parleremo in seguito del principe di Bologna, come è stato definito il Bentivoglio, così come avremo modo di approfondire la figura di colui che fu incaricato di progettare il restauro, il geniale Aristotele Fioravanti, ingegnere dallo straordinario talento, le cui imprese sono tuttora argomento di studio. La struttura del Palazzo del Podestà è rimasta invariata dopo l'intervento, che ha mantenuto l'assetto del palazzo come complesso architettonico attraversato da due strade che si incrociano sotto una volta a crociera, chiamata il Voltone del Podestà, sopra la quale svetta la cosiddetta Torre dell'Arengo, dove è collocata una campana, che in passato serviva da richiamo per il popolo in caso di eventi straordinari come un'assemblea o la chiamata alle armi. Va precisato che la ristrutturazione è rimasta comunque incompiuta per la cacciata dei Bentivoglio dalla città a seguito di una rivolta popolare. La facciata del palazzo è quindi priva di cornicione e di merli. Il voltone del podestà è sostenuto da quattro pilastri, sormontati dalle statue dei protettori di Bologna, San Petronio, San Procolo, San Domenico e San Francesco, realizzate in terracotta da Alfonso Lombardi e posizionate nel 1525. È proprio all'ombra del voltone che ci soffermiamo per raccontare il primo dei sette segreti di Bologna. Il voltone, infatti, è in grado di trasmettere i suoni da un capo all'altro. Posizionandosi in uno degli angoli, è possibile udire ciò che viene anche solo sussurrato all'angolo opposto. Si tratta di una specie di telefono senza fili naturale, insomma. Secondo una leggenda, questa proprietà veniva sfruttata durante il Medioevo per confessare i lebbrosi. In questo modo i monaci potevano mantenere la distanza per non esporsi al rischio del contagio. Non sappiamo quanto ci sia di vero in questa diceria. Quello che è certo è che il voltone del podestà è noto alle cronache anche per un altro motivo. È qui che venivano impiccati i condannati a morte, in modo che fossero ben visibili dalla piazza. Alzando lo sguardo al braccio del voltone rivolto verso la piazza, è ancora possibile vedere due delle forche alle quali venivano fissate le corde.